ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno, già, sì, pronto, cazzoni, sono culone. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sostiene che l'articolo 18, anzi no, che il lavoro è un diritto costituzionale. Il lavoro è diritto costituzionale. Cioè chi non ha il lavoro non avrebbe un diritto costituzionalmente garantito. Capito Parenzo? Una cosa ridicola. Vero, cioè, sto seguendo tutto. No, ma chi non ha il lavoro è normale che non abbia il lavoro in una società capitalistica. Ci sono i disoccupati e ci sono gli occupati. Esisteranno sempre. Le società dove c'è piena occupazione non esistono. Certo, dunque il diritto, il lavoro non è un diritto costituzionale. Non puoi rivendicare il lavoro come diritto costituzionale. Capito? Lui ha detto chiaro. Che l'articolo 1 della Costituzione tutela il lavoro. Alzate il volume che non si sente niente. Parenzo, come al solito, vai. E a chi mi dice che eliminando l'articolo 18 togliamo un diritto costituzionale, rispondo dicendo che il diritto costituzionale non sta nel fatto di avere o meno l'articolo 18, ma nel fatto di avere o meno un lavoro. Quello che succederà, perché ovviamente qui sembra che siamo alla vigilia di una rivoluzione, sembra che siamo alla vigilia della rivoluzione, cosa che bisogna sempre verificare in Italia, poi i testi di legge, cosa viene cambiato, cosa non viene cambiato, la discriminazione quando uno viene licenziato, i ricorsi ai giudici. L'Italia è un paese irriformabile, questa è la realtà, irriformabile. C'è sempre una scappatoia, qualcuno che riesce a fare ricorso a un giudice, quello che ti dà torto, quello che ti dà ragione. Ma come si può modificare? È immodificabile, diciamo la verità, immodificabile. Allora, però Renzi da Fazio nel weekend contro i sindacati che non hanno. Io quando fa queste cose contro i sindacati godo, poi bisogna metterle in pratica queste cose contro i sindacati. Quando dice per esempio che il sindacato non ha l'articolo 18, che è vero. Che sa chi è l'unica azienda che sta sopra i 15 dipendenti e non ha l'articolo 18? Il sindacato. Il sindacato che ci viene a fare lezioni, dopo essersi dimenticato per 40 anni dei precari, dei giovani, delle mamme che non riescono ad avere la maternità, di tutti questi, il sindacato è l'unica realtà in Italia che, pur avendo più di 15 dipendenti, non ha l'articolo 18. Anche che verranno cancellati tutti i contratti a termini, vedremo, verificheremo. Però ragazzi, quello che è successo con Della Valle, che ha attaccato pesantemente Renzi e Marchionne, ne vogliamo parlare? Cioè, parliamone subito, dai. I due Sola, l'incontro tra i due Sola. Bisogna dire che Renzi è passato dall'amore verso Marchionne alla diffidenza verso Marchionne, e adesso c'è una nuova intesa con Marchionne. Anche lui ha cambiato idea su Marchionne. Comunque, Della Valle. Quanto vanno d'accordo Renzi e Marchionne? Un incontro di due grandissimi Sola. Sola? Certo, Sola. Per chi non conoscesse il romano, diciamo, due chiacchieroni. Mi dispiace per quanto riguarda Matteo, dell'altro ho già detto. Ne parliamo tra poco. Negli anni passati. Allora, Della Valle spalle. Tra l'altro non si capisce se vuole fare sto famoso partito, no? Addirittura si è parlato di andare al Quirinale. Ecco, non sono finiti bene quelli che, a parte Berlusconi, che è un'altra storia, no? Cioè, non mi sembra che abbiano avuto per il momento molta fortuna quelli che facevano gli imprenditori, eccetera, consigli di amministrazione, no, banchieri, eccetera, no? Al di là di Della Valle c'è stata la grande rivoluzione, la grande rivoluzione del weekend, ed è stata Vladimir Luxuria, la Pascale a braccetto con Luxuria, la Pascale a braccetto con Luxuria, al telefono con Berlusconi. Ma la parte più interessante non è tanto l'avvicinamento della Pascale al mondo lesbo, al mondo trans, eccetera, eccetera, questo un po' si sapeva, anche se, come dire, l'immagine e la voce della Pascale all'interno del Gay Village fa comunque una certa impressione, no? C'è la moglie di un leader del centrodestra all'interno del Gay Village, una cosa che non si era mai verificata. È un'immagine moderna, però. Sì, no? Moderna, sì, non c'è un cazzo da dire. Aspetta un attimo questa cosa qua, perché c'è la storia di Giucas Casella, che è fantastica, perché pare che Luxuria abbia una specie di amante o qualcuno tra un politico molto famoso. Senti. Parlerai con me e non ricorderai nulla della tua posizione. Come ti chiami? Vladimir. Hai una storia d'amore? Sei felice? Sì. Non lo posso dire. Come non lo puoi dire? Perché, scusa? Perché è famoso. È un politico. È troppo famoso. Togliete un attimo i bambini dall'ascolto, per un secondo, togliete i bambini dall'ascolto. Vittorio Sgarbi ieri sera a favore, spiega così il fatto di essere a favore della prostituzione, contro la punizione dei clienti alla gabbia. Allora, lo voglio mettere subito. Vittorio Sgarbi ieri sera, sentite. Esco dalla fiera dell'antiquariato di Modena e lì ci sono una quantità di troie meravigliose, generalmente nere, una del Camerun, bellissima, sorridente, con dei denti bianchissimi. Mi riconosce perché stava in Italia da un po' di tempo e mi saluta. Mi metto a parlare con lei, con un gran movimento di automobili. A un certo punto, preso da tenerezza verso la sua capacità di essere, le do 50.000 lire. Lei le prende e dice: che faccio? Ah, niente, te le tiri. Continuiamo a parlare per 10 minuti. Ne do altre 50 con il mio autista vicino. Lei dice: allora posso fare qualcosa con lui? Dice: no, neanche io. Dice: ma questo non è serio. Io non posso prendere soldi senza fare niente. Non è possibile. Siete poco seri. Allora devo fare lo spettacolino. Ha tirato fuori un uccello di gomma grande così e lungo la rotatoria si è penetrata con soddisfazione per pagare quello che aveva avuto. Quindi l'esempio più alto di etica, credo che non ci sia nessuna del governo Renzi che ha dato una prova così alta di moralità in cambio dello stipendio che prende. A un certo punto Sgarbi ha fatto una scena tipo Radio Belva, se n'è andato. Scusa, questo l'hai fatto sentire a proposito del diritto al lavoro, immagino, no? Certo, perché certo. La famosa etica del lavoro. Certo, che giustamente Vittorio dice... È perfetto rispetto al tema della prestazione dell'articolo 18, peraltro. Beh sì, è tutto collegato, è chiaro. È tutto collegato. A proposito, la Biancofiore da noi diceva su Luxuria che è gettonata perché mezza e mezza. Francamente io non vado a interessarmi della vita privata di Luxuria, francamente lei faccia quello che vuole della sua vita. So che lei lo ha detto tante volte, che anche in Parlamento, che ovunque, eccetera, eccetera, no, che era molto gettonata, l'ha detto spesso e volentieri, no? Perché probabilmente una cosa mezza e mezza è probabilmente, come si diceva prima, trasgressivo e quindi attraente, ma che mi dite che sia normale, no. A Alle 19.15 il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, caro Parenzo, in una telefonata esclusiva con il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. Beh, insomma, cerca, non dico di scusarsi, ma quasi, per il suo volo verso la curva della Sampdoria ieri sera dopo la vittoria nel derby, che ha fatto discutere, non si può, una cosa esagerata. Il Viperetta chiama Preziosi, 19.15 manderemo la telefonata. L'Italia è alla vigilia, sembra, di una grande rivoluzione nel mondo del lavoro, mentre la Pascale va al Gay Village a braccetto con Vladimir Luxuria, circondata da froci, trans, eccetera, eccetera, e lesbiche, anche se dice di non essere lesbica. Mentre l'Italia attraversa questi sommovimenti e De Magistris sostiene di essere... di voler restare sindaco sospeso come il caffè a Napoli? Ovviamente se verrò sospeso ne prenderò atto, ma la sospensione non significa dimissione, le sospensioni sono a tempo, perché io sono convinto che altri giudici sapranno porre rimedio a questa ingiustizia, e nel frattempo farò effettivamente il sindaco sospeso. A Napoli c'è il caffè sospeso, io farò il sindaco sospeso in mezzo alla strada tra i miei concittadini e riparerò anche qualche buca in più con le mie mani, senza dubbio. Mentre succede tutto questo, ci sono persone animalisti. Uno di questi lo abbiamo qui al telefono, presidente di un'associazione che è Associazione Italiana Difesa Animale e Ambiente, si chiama Lorenzo Croce, che pensano che il cappuccetto rosso, sai la favola di Cappuccetto Rosso, Parenzo? Non la conosci? La racconto, sì, sempre, ecco, anche a mio figlio. Certo. La racconti, non è che ti preoccupi del fatto che il lupo, no? Sai che il Cappuccetto Rosso, c'è il lupo, no? Il lupo, certo, è, come dire... Ma è... il lupo per fortuna alla fine gli sparano al lupo, altrimenti sei mangiato la nonna, scusa. È raffigurato in maniera negativa, non ti preoccupi tu di questo quando racconti a tuo figlio questa favola, ma no? Anzi, la racconto apposta perché il lupo è cattivo, si è mangiato la nonna, vogliamo stare dalla parte della nonna, bravo, o del lupo? Bravo. Eh beh, non farmi incazzare subito, c'è chi... siamo dalla parte della vecchia che è stata mangiata dal lupo. C'è chi pensa invece che l'immagine del lupo sia negativa. Croce, buonasera, Lorenzo Croce. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Come andiamo? Ma che avete comunque? Perché vi preoccupate della favola di Cappuccetto Rosso? Scusi, ci sono cose molto importanti in Italia che stanno accadendo, certo, molto importanti. Ci occupiamo anche di quella, come di evitare il taglio degli alberi e di altre cose, però ci occupiamo anche di questo, perché... Perché? La favola di Cappuccetto Rosso rappresenta sicuramente una, sì, favola negativa. Una favola negativa? Assolutamente, nel ma quadro per chi? Generale. Per chi? Perché sì, perché innanzitutto il lupo non è affatto un animale... Non è un animale così come è stato presentato, e siccome purtroppo questa favola, sì, come altre favole, sì, sono degli esempi negativi, noi chiediamo, sì, che siano sostituite con fiabe, con esempi positivi. No, ma scusi un attimo, scusi Croce, sì, lei vorrebbe che ritirasse, a parte che il Cappuccetto Rosso, ormai i libri ce ne sono a tonnellate in tutte le case degli italiani, cioè lei vorrebbe che fosse ritirato dal commercio, mi spieghi bene questa cosa? No, noi abbiamo chiesto, è chiaro che si tratta di una provocazione, Vabbè, ma la provocazione, chiesto, che sta a fare? Stare a scherzare, chiesto, mica siete la zanzara, sì, voi siete un'associazione che comunque si occupa degli animali. Certo, infatti noi abbiamo chiesto che venga ritirata Cappuccetto Rosso così com'è, perché in realtà riteniamo che la figura negativa sia il cacciatore, che è quello che in realtà uccide nella vita quotidiana gli animali, e non sia il lupo, che in realtà viene invece cacciato e ucciso. Cioè, nel vostro mondo ideale... Siamo anche noi dalla parte della nonna, sarebbe il nostro mondo ideale, sarebbe il mondo ideale. Nel vostro mondo ideale, sostanzialmente, questa favola dovrebbe essere ritirata dalla circolazione. Sì, ma infatti noi domani proporremo la controfavola. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Luxuria Pascale, sai che io le voterei queste due insieme, Parenzo, cioè sono una coppia meravigliosa. Beh, sì, effettivamente. Luxuria Pascale, la Pascale fa veramente dei passi avanti giganteschi, giganteschi rispetto anche a molte donne, sì, del Partito Democratico, che non hanno il coraggio di dire quello che dice la Pascale. È una leader nata, però io non posso far passare una cosa gravissima. Aspetta, fammi sentire prima Luxuria. Non è l'articolo 18. Cos'è? Ma è la nonnina del lupo. Aspetta un secondo. Voglio sentire la voce. Io devo dire, è gravissimo quello che ho sentito. Fammi sentire oltre al fatto. È molto grave. Aspetta, uccidere una vecchia. Lei è una che riesce a fare economia sui fagiolini, che ha mandato fuori tutte le donne di Berlusconi. Ma non è vero. Lo può stravolgere antropologicamente Berlusconi, che diventerà non solo più gay friendly ma anche più alto. Sì, qualcosa di sinistra doveva dire Vlad. Intanto mi sta dando una notizia che sono lesbica, non lo sapevo. Però se un giorno dovessi diventare lesbica, vorrei essere lesbica liberamente. Mi vergogno a volte che gli eterosessuali come me discriminano gli omosessuali. Questo è un passaggio un po' tortuoso, cioè non è che se dovessi essere lesbica un giorno vorrei esserlo liberamente. Oggi in Italia se una è lesbica lo può essere liberamente, nessuno dice nulla, non è che ti pigliano a pietrate come succede in Indonesia, dove il sesso tra omosessuali è addirittura punito, non so con quanti anni di carcere, ho letto l'altro giorno una notizia. Ma cos'è che volevi dire, Parenzo, al signor Croce, il quale sostiene che bisogna ritirare dal commercio tutti i fumetti, le favole di Cappuccetto Rosso? Che volevi dire al signor Croce? No, beh, il signor Croce ha detto delle cose gravissime intanto, perché con questa campagna si è schierato dalla parte della vecchia, cioè vuole uccidere le vecchie, perché del lupo si è schierato. Contro le vecchie. Io posso anche essere d'accordo che in un periodo di crisi i vecchi vadano soppressi in qualche modo, no? Perché costano sull'INPS. Però questa è un'altra battaglia che si può fare. Propongo all'animalista allora di uscire allo scoperto, di fare una grande battaglia dove dice sopra i 70 anni, siccome non abbiamo più soldi per pagare le pensioni, bisogna uccidere i vecchi, ma non toccate la favola del lupo, perché il lupo è cattivo e va scuoiato perché ha ucciso la vecchia. Croce? Vabbè, non credo che ci sia molto da commentare nelle parole di Parenzo. Allora, innanzitutto noi non vogliamo uccidere la vecchia e nessun vecchio, non vogliamo uccidere nessun vecchio, anche perché io ho una mamma che ha 83 anni, quindi ho rispetto per lei. In secondo luogo, quello che noi vogliamo eliminare, ripetiamo, è il cacciatore, perché è lui quello che uccide. Ma non c'è nulla da eliminare. Non c'è niente, è una favola. Le favole si cambiano. I cacciatori esistono da quando esistono da quando esiste l'uomo, caro Croce. Arrendetevi. Arrendetevi voi con i vostri fucili. Ma io non sono mai andato a cacciare, ho visto una volta, sono andato a cacciare con mio zio una volta, ma non ho mai sparato in vita mia. Guardi che ci conosciamo bene. Senta, Croce, scusi un attimo, volevo dire una cosa, ma lei una volta venne qua da noi. Deve sapere di più, il finale della storia, non è quello, io la racconto diversamente. No, aspetta, io voglio sapere una cosa su Dudu. Voglio sapere una cosa. Il lupo viene scuoiato e diventa una copertina per la nonna, ad esempio. Bellissima. Il lupo viene scuoiato e diventa la copertina per la nonna, potremmo fare così. Scusi, Croce. Il pelo del lupo, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Senta, lupo, Croce. L'uomo sul lupo, bellissimo, sì. No, è il lupo sull'uomo. Vabbè, lupo, Croce, un attimo. Com'è andata a finire l'ispezione che voi volevate fare a Dudu? Ma due ispezioni sono state fatte. Come due ispezioni? Dall'ASL, due volte. E siete riusciti a far mandare l'ASL a Dudu? Ma non è che noi siamo riusciti, abbiamo fatto. Al veterinario che glielo conferma, abbiamo mandato la ASL di Roma come mandiamo a tutti i cani, che sono. Ma che è successo? È riuscito a entrare ad Arcore? Io non sono pazzo, Parenzo. Sono uno che si occupa di tutela di animali. Ma allora che è successo con Dudu? Niente, è successo che adesso sta bene. È stato dopo la prima volta, la seconda volta l'hanno trovato questa. Perché bene. La prima volta come l'hanno trovato Dudu la prima volta? Mi risulta che l'hanno trovato un pochino con i suoi gliceridi fuori posto. Ma dai, sulla ASL, cioè tu capisci come vengono persi i soldi degli italiani? La ASL è andata a fare un'ispezione da Dudu ad Arcore trovando i trigliceridi alti. Non ad Arcore, a Palazzo Grazioli. Vabbè, uguale, Roma 1. La stessa ASL Roma 1 ha fatto un'ispezione a Palazzo Grazioli trovando i trigliceridi miniserie di Aldi in Dudù, non ce la posso fare, si spendono così i soldi degli italiani. Croce, ho fatto una segnalazione, che volete? E poi la seconda ispezione andava bene? È andata bene perché quando ha giocato con la palla con Putin pare che abbia smaltito e stia bene. Ah, per cui lei è orgoglioso di questo, tra l'altro, di avere fatto spendere soldi agli italiani mandando gli ispettori dell'ASL. Oh, beh, guardi, i soldi che faccio spendere io valgono sicuramente molto di più di quelli che fanno spendere molti altri gli italiani, quindi... Va bene, va. Sì, sono orgoglioso. Cappuccetto rosso. E anche Peppa Pig. Ma che c'ha Peppa Pig? Vabbè. Devo dirvi la verità, ho passato tutta domenica e questa mattina a capire chi può essere l'amante segreto di Vladimir Luxuria. Cioè, avete capito, del dibattito in corso alla direzione del Partito Democratico. Ma sta parlando D'Alema. Ma appunto. Tu pensi che gli italiani siano bloccati dall'intervento di D'Alema alla direzione? Già il fatto di spiegare che cos'è la direzione. Capisco che è importante la democrazia. No, scusami, ma non è che si discute ogni volta continuamente. Non è che si discute continuamente. Era tutto fermo. Allora, alla gente dell'intervento di D'Alema, appunto. Gente che si è fermata. Sì. E ha detto: io stavo tornando a casa, allora ho passato la direzione, stavo tornando a casa, la gente si ferma, dice: Parenzo, anche lei va a sentire Civati e D'Alema? Dico: sì, sto correndo, vuole un passaggio, c'è gente che mi ha dato un passaggio fino a casa perché dovevano vedere D'Alema, sentirlo. Poi io invece distrattamente ho sentito prima Cooperlo, l'avversario dalemiano di Renzi, il quale diceva: un leader non deve dividere, deve unire. Ecco, io la vedo esattamente all'opposto. Cioè, un leader deve dividere, fortemente dividere. Dopodiché chi è minoranza in un partito cede alla maggioranza. Non è che va via, scappa, fa casino. No, si vota su un provvedimento. Dopodiché si resta all'interno di un partito, succede sempre all'interno di tutti i paesi europei. E con questo chiudiamo questa infausta parentesi sulla direzione del Partito Democratico. Vi ripeto, ho passato tutto il weekend interrogandomi su chi fosse l'amante segreto di Vladimir Luxuria, cioè il politico, perché me l'avevano detto che Vladimir stava con un politico, comunque se la faceva con un politico, ha un amante, un politico famoso, signora Luxuria. Ma Parenzo, con chi stai parlando? No, per curiosità, vorrei capire con chi stai parlando. No, sentivo delle voci dietro, chi erano? Non ho capito. No, le voci dietro sono dovute al fatto che abbiamo appena spento nella pausa della radio la prima candelina di mio figlio, perché oggi che benissimo, però ti puoi occupare di Bersani e di Berlusconi, ma anche di tuo figlio, benissimo, dai. Ma anche di mio figlio, quindi colgo l'occasione, visto che questa è radio dedica, per fare gli auguri a mio figlio di benissimo. Buon primo compleanno nel giorno in cui D'Alema sta facendo... applausi il figlio di Parenzo, il figlio di Parenzo che si chiama non a caso Elia Nathan, cioè non è un nome, scusa, Eli Nathan, non è un nome come dire italico, di origine italica, ecco, no? Guarda che l'hai fatto piano, si chiama facciamo gli applausi. Hai detto che si chiama Eli Nathan, facciamo gli applausi perché è giusto fare gli applausi. Ecco, un anno è nato. Ma stai zitto un attimo. Che chiedi alle signorine, sai? No, ecco, no, si è messo a piangere. Allora, un anno di Eli Nathan, abbiamo fatto gli applausi. Grazie. Benissimo. 29 settembre come Berlusconi e Bersani. Benissimo. Però non è necessario che tu, ecco, fino alle 21 hai in braccio questo signore di un anno. No, braccio, depositalo da un'altra parte, rinchiuditi là, cerca di urlare al telefono, di farti sentire, perché altrimenti quello che tu hai detto prima, lo zio Cruciani, signor Cruciani si incazza, capito? Si incazza. Glielo vuoi dire? Anche ecco, bravo. Che spiegagli anche che dovrebbe scoprirmi lui chi è l'amante segreto di Luxuria. Sentiamo di nuovo. Sentiamo. Vabbè, non ti preoccupare. Parlerai con me e non ricorderai nulla della tua posizione. Come ti chiami? Vladimiro. In questo momento hai una storia d'amore? Sei felice? Sì. Non lo posso dire. Come non lo puoi dire? Perché, scusa? Perché è famoso. È un politico. È troppo famoso. Ah, siccome è tutta una finta questa, questa ipnosi di Giucas Casella, allora, Luxuria dovrebbe dire politico famoso. Chi è sto politico famoso con cui te la fai? Vladimir. Dopo il riassunto del TG3, la telefonata di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, al presidente del Genoa Preziosi. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Direzione PD sul lavoro, Renzi, articolo 18 solo per discriminatorio e disciplinare, basta tabù, compromesso ma non a tutti i costi, confronto con i sindacati. La minoranza firma sulla difesa del reintegro, in Senato voteremo i nostri emendamenti, Orfini servono modifiche, Del Rio troveremo la sintesi. Sindacati divisi sulla risposta al governo, CGIL, CISL e UIL non trovano un accordo per una manifestazione unitaria, Camusso sui contratti e propaganda. Padoan, in Europa situazione preoccupante, basta rigore, rivedere il fiscal compact per rimettere in moto la crescita verso nuovi tagli al cuneo fiscale. La polizia cinese si ritira, ma i ragazzi continuano la protesta nelle strade di Hong Kong. Questione interna, risponde Pechino alle critiche internazionali. Su Facebook l'ultimatum a Schettino della giovane moldava, con lui sulla plancia della Concordia la sera del naufragio, racconta la verità oppure parlo io. La storia di Shin, detenuto fin dalla nascita in un campo di prigionia nordcoreano, la sua fuga dopo le torture è diventata un bestseller. Il suo racconto al TG3. Si sente male, ma il grande protagonista di queste ore, cioè dire il presidente della Sampdoria Viperetta, davanti a tutte le televisioni, prima della partita, si era rivolto così per l'ennesima volta a Ilaria D'Amico. Voglio salutare la D'Amico, gli volevo dire che ho l'anello ardito, ho il mosquito e la vorrei portare a Ostia Lido. Ciao D'Amico! Allora, c'ho l'anello ardito, c'ho il moschito e la vorrei portare a Ostia Lido, numero uno. Vabbè, poi ha fatto dopo la partita una corsa verso la curva della Sampdoria, impazzito di gioia con questi occhi spiritati, è numero uno assoluto. Se la sono presa molto, ovviamente i tifosi del Genoa, il presidente del Genoa. Poi nel pomeriggio di oggi Ferrero chiama Preziosi. Presidente Preziosi? Sì. Buonasera, è la segreteria del presidente Massimo Ferrero, posso passarglielo? Sì, va bene, grazie. Grazie a lei, buonasera. Sì. Come va? Come va? Va bene, non ti preoccupare. Normale. Sono incazzato. No, io non sono incazzato, io non sono mai incazzato. Io sono uno che sa, sono un uomo di calcio, Massimo. E io so quando si perde, quando si vince, e so perdere. La cosa che un po' mi è dispiaciuta, dico francamente, ma tu non lo sapevi. Quando si è ospiti non si va mai in campo a fare quelle robe lì. Né io né tu, perché io questo qui l'ho fatto prima di te, le corse, no? Però quando sei ospite in casa di un'altra società che ti ospita non lo puoi fare. Tu l'hai fatto, e quando i giornalisti me l'hanno detto, ormai so cavoli suoi, ho detto, forse avrei corso anch'io. Io sono fatto così, sono fatto così, però bisogna rispettare un po' la tifoseria, se no. Vabbè. No, ma sai cosa succede? Succede che io non mi sono mai permesso, che qua hanno vinto 7-8 di derby, non sono mai uscito con la tifoseria dentro a fare, vado sotto la mia quando sono in casa io, se vinco io, queste sono le regole, poi tu non le fai, a me non me ne può, Massimo, non me ne può fregare di meno, alla fine non me ne frega proprio niente. Ma io volevo dirti solo una cosa. Forse ho esagerato, la sciarpa, il giro del campo. No, ma ognuno fa quello che gli pare. Non si è capito, da una parte ha detto anch'io avrei fatto, no, sarei andato sotto la curva, dall'altra dice no, lo devi fare perché non si deve fare, non perché si fa. Non si fa, bah. Ferrero chiama Preziosi, la Biancofiore pensa invece che i transessuali sono una cosa mista, che non esiste in natura, una cosa che non esiste in natura, dopo aver detto che lussuria è gettonata perché mezza e mezza, insomma, perché c'ha il gingillo, lo ha chiamato il gingillo, cioè il cazzo. È la gingilla invece. Francamente, se uno è gay vada con l'uomo o con la donna, se uno è etero vada con l'uomo o con la donna, ma che vada con una roba mista mi sembra un po' strano, anche perché no, non esiste in natura la roba mista, è una cosa artificiale. Radio Padania, il conduttore, il nostro amato conduttore Pellegrin Parenzo, se la piglia per, se la piglia con me per quell'intervista che ho fatto, per quell'intervista che ho fatto a Dago Spia sul sesso eccetera, ma non c'è niente da pensare, Pellegrin, cioè, ma parla con gli ascoltatori tuoi, no, vai a parlare di me, Pellegrin, dai, su, per campare c'hai bisogno di sentire la zanzara, dai. Comunque il piacere del signor Cruciani, a quanto pare, è vedere la propria donna farsi coprire, farsi montare da altri uomini. E poi lui ha anche confessato di amare un leccamento, ma non il cunilingus, no, lui ama leccare i piedi. Devo dire che gli piacesse leccare i piedi non c'era bisogno di dirlo, per carità. Battutone, battutone di Pellegrin. No, ma sai cos'è bello anche? Il linguaggio sempre allusivo che Radio Padania usano, no? Tu non hai mai usato la parola montare riferito. Vabbè, diciamo, ho detto scopare, che non è molto diverso. No, diciamo, però vedi, il signor Pellegrin. No, vabbè, ho capito. Ha messo il carico da 90, ha messo il carico da 90. È normale, però non sono certamente io che posso, come dire, parlare di linguaggio a Radio Padania, dare lezioni di linguaggio a Radio Padania. No, ma la cosa da ricordare molto grave è che tutto questo spezzone che ti ho fatto sentire è stato pagato con i miei soldi. Sì, bisogna sempre dirlo. Milioni di ascoltatori che stanno. No, bisogna sempre dirlo. Cioè, sempre, tutto quello che sentite sempre da Radio Padania sempre è pagato con i vostri soldi, Pellegrino. Bravo, bravo, bravo. Se dopo gli piace vedere la propria donna giacersi con altri uomini, significa che è abituato, che lo ha visto fare diverse volte, sono fatti suoi. E allora perché ne parli se sono fatti miei, scusa? Poi bisogna dire che noi tagliamo questi pezzi di Radio Padania del signor Pellegrin appunto perché vogliamo riprenderci qualcosa dei nostri soldi, almeno lo 0,5% dei soldi che noi diamo per mantenere in vita Radio Padania, la Padania e tutti i giornali di partito, non solo loro, che dovrebbero essere aboliti, e aggiungo anche i pochi soldi che prendono tutte le altre testate sotto le forme più varie, tutto azzerato, tutto abolito. Io sono per questa cosa qui. Dunque Pellegrin, Radio Padania e altri, non mi rompano i coglioni su questo, eh. Io vorrei azzerare tutte le forme di finanziamento e di aiuto pubblico all'editoria, tutte azzerate, zero carta, abbonamenti, tutto finito. Poi lo sapete, ci guadagnano i migliori. Ah, Cruciani, muoviti, devi dirci quanti soldi prendi. Hai paura di me? Ti faccio così tanta paura? Mi hai dato del subnormale. Sai che potrebbe essere anche ingiuria. Non è il mio caso, ma fra, puoi dirmi quello che vuoi, sono per la libertà di parola. Parte che l'ha detto Parenzo questo, io non l'ho detto subnormale. No, ma infatti è ingiuria. Infatti bisogna chiedere scusa perché i subnormali potrebbero rimpiazzarsi, potrebbero per averlo paragonati, sicuramente, per averli paragonati a, come si chiama? Varin. Pellegrin, questo Pellegrin. È Pellegrin Radio Padania. Ci ripigliamo un po' di soldi che diamo a Radio Padania. Cioè, non ho capito, mi ha dato subnormale uno che lecca i piedi alle donne. Anzi, no, ma quello è il meno. Uno che ama vedere la propria donna farsi montare da altri uomini, e poi il subnormale sarei io. Sì, sì, sì, sì, per carità, Cruciani, per carità, ti do ragione. Piercarlo, Torino, buonasera. Buonasera. Dimmi. Oggi è questa giornata è il compleanno di Silvio Berlusconi, e allora volevo fargli tanti auguri. 100 di questi giorni sì, in galera. Sì, 100 di questi giorni in galera, Piercarlo. Come mai lei vuole Berlusconi in galera? Sono tanti quelli che vogliono Berlusconi in galera, ma come mai adesso lei se ne viene fuori con questa cosa, caro Piercarlo? No, Piercarlo, io sono 20 anni che la penso così, quindi non è che sia una novità proprio oggi. Oggi in combinazione ho telefonato a voi. Tra l'altro vorrei ancora fare una considerazione. Ho sentito Toscani qualche giorno fa, sì, che diceva che Salvini non è acculturato. Sì, dico così bene? Ha detto, sì, così, così ha detto. Ma no, non è vero, è andato 16 anni all'università, è vero che non ha preso la laurea, però ci è andato all'università per 16 anni, a nostre spese. Ma per 16 anni si è iscritto all'università? Sì, sì, l'ha frequentata per 16 perché, anni. Ma perché secondo lei il metro per valutare una persona acculturata o meno è la frequentazione dell'università? No. Io conosco persone... No, che, no. E allora? Io all'università difatti non l'ho frequentata perché non avevo la possibilità economica per farlo. E comunque non è che la politica la fanno solamente le persone acculturate? Eh? No, infatti, ci mancherebbe. Va bene, grazie. Claudia, Como? Buonasera Cruciani. Ciao, ciao Claudia, dimmi. Mi dimmi. Sente? Sì, più o meno. Salve, senta, volevo farle una domanda. Sì. Ma lei perché non si tromba la Sara Tardelli? Come, scusi? Non ho capito. Signora Claudia. Perché non si tromba la Sara Tardelli? Ma è così brutta. Ma a parte che non la conosco, primo. Secondo, non so di chi sta parlando. Ma cosa si dice ma sì, la bambolina rosa, lì, la Madonnina infilzata. La Madonnina infilzata. A parte, sì, che, a parte che lei sta utilizzando un linguaggio che, per carità, va benissimo, siamo alla zanzara, però siamo andati un po' oltre. Cioè, sta parlando di una persona che collabora ad un'altra trasmissione e dunque che di che stiamo parlando? Qua? Ma non so, una cretina. È una cretina che chiama. Ma Luciani, ma lei non era un tomber? Scusi, abbia pazienza Claudia, se lei vuole scherzare con me possiamo scherzare tranquillamente, siccome lei mette in mezzo persone e parla in maniera esplicita lei di persone, è una che vuole semplicemente, guardi, che vuole semplicemente, cioè che pensa di mettermi in imbarazzo, solo che ci vuole ben altro per mettermi in imbarazzo, ha capito, guardi, cara Claudia? Ma lei non è più per cui prima però, che io la mandi a fare in culo, prima che io le mandi a fare in culo, anche immediatamente, lei subito, cerchi di correggersi un attimo, cerchi di virare un attimo se vuole, altrimenti chiudiamo il telefono tranquillamente. Posso chiedere un'altra cosa? Sì, seria, avanti. Ascolti, mi pigli in giro, non si preoccupi, tanto non è seria lo stesso. Tanto la lascio parlare tranquillamente. Facciamo finta che quello che ha detto non sia esistito, diciamo. Sì, dai, azzeriamo, ricominciamo. Azzeriamo, perché lei è malata poi, no? Lei è malata. Sì, è malata. C'ha in testa qualcosa, no? Che cosa ha in testa? No, senta, volevo chiederle seriamente, ma perché Minoli non lo mandate giù a intervistare qualcuno dell'ISIS? Dell'ISIS, ha quello giù da lì. Scusi, ma scusi, alla fine ma poi la gente una saletta e siete a posto, cioè avete risolto il problema, no? Non ho capito, no. Che cos'è che facciamo? E gli intitolate una saletta lì della radio e siete a posto. Guardi, io non so di che cosa sta parlando, ha capito? Ha chiamato, ma non so, ha chiamato per pensare di mettermi in difficoltà o comunque per mettermi in imbarazzo parlando di una persona che collabora con la radio, di una persona che fa una trasmissione alla radio. Non me ne fotte nulla. Ha capito Claudio di quello che sta dicendo? Non me ne frega niente, la faccio pure parlare per mostrare a tutti la sua enorme cretinaggine, chiaro? Ma lei lo sa che i suicidi degli agenti di commercio dalle 9 al... Dalle 9? Sì, vabbè, questa vuole parlare male di Minoli e dunque pensa di chiamare qui per parlare male di Minoli, ti rendi conto? Non lo so, questo imbecille qua. Se si chiama lui non fa passare nessuno, cioè non lo vabbè, so. Lei è un imbecille. Ma lei è una poveretta. Posso dire l'ultima cosa, la prego, l'ultimissima cosa. Prego, ma tanto voglio dire, non c'è problema, qui siamo alla Neuro, per cui non c'è problema. Un grido di guerriglia. Sì, sì. Sì, ciao, ciao Claudio, ciao, ciao. Salve, salve. Lorenzo Firenze. Oh, abbassa, abbassa. Pronto Cruciani? Sì. Sì, buonasera. Senta, scusi, ho perso un po' il filo della trasmissione. Volevo parlare della... Non vuole... Non c'è filo qua, vai. Voleva della prostituzione. Sì. Voi che siete in favore della prostituzione. No, non siamo in favore della prostituzione, siamo a favore della legalizzazione, che è una cosa un po' diversa. La legalizzazione della prostituzione. Allora? Ecco, due o tre domande da chiedere. Io penso che una prostituta prende soldi anche per, diciamo, lo scotto sociale che deve pagare. Se domani fosse legalizzata, cioè non è che ci sarebbe più offerta, quindi il prezzo calerebbe, cioè non credo che uno debba, mi sembra una cosa, cioè nessuno, la prostituta costerebbe meno. Lei una volta disse il diritto della prostituta è di passare dai 600 ai 6.000 euro al mese, ma se è un lavoro socialmente accettato perché deve essere pagata così tanto? Punto primo. Poi Non ho capito, scusi Lorenzo, si spieghi meglio, non ho capito bene. Cioè, se la prostituzione diventerà un lavoro socialmente accettato, perché dovrà essere pagato tanto quanto ora? Cioè, ora una prostituta viene pagata anche per lo scotto sociale che deve essere... Lei sta facendo un ragionamento un po' troppo complicato. Ognuno si fa, fa pagare quanto vuole, chiaro? Eh sì, ma poi un'altra cosa che mi chiedo. No, ma non è un'altra cosa, lei non si chiede nulla, lei sta scherzando. No, cioè... Ma come sto scherzando? Cioè, ci si sta pensando da giorni. Sì, vabbè, ma lei dovrebbe pensare ad altro. No, allora, no, si ascolta la zanzara noi. Vabbè, poi? Un'altra cosa che ci incuriosisce. A parte se diventassero legali, cioè non è che c'è l'albo delle prostitute, come la, cioè io penso che il racket consegnerebbe in strada, non è che non le debella le prostitute in strada. No, non c'è dubbio, poi? E un'altra cosa era, vabbè, il fatto che comunque sia un lavoro socialmente accettato così potrebbe dare la possibilità a persone che sfortuna loro, e ci sono persone sfortunate che magari non hanno fatto la scuola giusta, non hanno avuto gli stimoli giusti, la possono considerare come un'opzione sociale. Vabbè, arrivederci Lorenzo, arrivederci, si faccia, non si fa, si sta facendo troppe pippe mentali, ciao. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Sgarbia ha provato ad andarsene anche ieri, stile Radio Belva. Se n'è andato da Paragone, poi l'hanno ripreso. No, ho visto che è andato via, si è spostato un attimo. Sì, perché non lo facevano parlare, cioè le solite robe. Io penso che la via che stiamo scegliendo è la via più ipocrita. Allora prendiamo una decisione. Però c'è una contraddizione nel discorso dei due giovani, perché meglio la prostituzione che non la droga. Intanto voglio chiedere, se non lasci finire, chi è a favore? No, aspetta, chi è a favore coglioni, della... No, aspetta, chi è a favore? No, Vittorio, aspetta. Ma poi facciamo di... Hai rotto il cazzo. Da, vieni qua. Uno comincia un discorso, lo interrompo. No, ma... Vai a darmi al culo. Vieni qua, Vittorio. Oh, ma è con noi Parenzo, è con noi una persona che... No, ma che ci vai, no. Ma che me ne frega di ci vai a me, ma dai, su. Marini. Una persona che apparentemente è fuori dalla politica, apparentemente è fuori dalla politica, perché poi bisogna sempre vedere, potrebbe anche... Il sociologo De Rita. No, ma che c'è, ma lui non è mai stato in politica, no, ma è uno che è stato in politica, è stato uno dei politici più famosi in Italia, adesso è fuori dalla... fuori, apparentemente fuori, non so, si è definito di recente che cosa? Un reduce, Clemente Mastella, buonasera! Ecco qua, da Ceppalori, dove sono il mio bel ritiro, fuori da queste cose della politica, articolo 18, povero articolo 19. Ma per carità! Sono un po' tranquillo. Lei impazzisce in realtà per questa situazione qua, vorrebbe essere in Parlamento a combattere, diciamola tutta, a combattere, no o no? Ma non combattono, questo è il problema. Questo mi piaceva la battaglia. Cioè fanno finta di combattere. Io ho fatto saltare pure governi, quindi è una battaglia. Ma l'ha fatto saltare lei o De Magistris i governi? Non ho capito no, bene. No, io dico nel recente passato. Ah, sì, no, quella. De Magistris ha fatto. In questo momento il nostro Clemente. Il nostro Clemente, in questo momento il nostro amico Clemente Mastella sta godendo come un pazzo. Perché sta godendo? Ma vi sbagliate, sapete perché che io non godo? Cioè, la cosa che ho detto a qualche amico mi ha chiamato dicendo: ah, ma tu sei così sfatto che De Magistris oramai. Ho detto: guardate, se uno sta davanti a casa sua e sta in grazie di Dio con gli amici, arriva un matto che tu non conosci, non gli hai rotto le palle, non hai fatto nulla, ti investe volontariamente e tu perdi la gamba, vita naturale, perdi la gamba. Poi dopo 10 anni o dopo 8 anni scopri che quello che ti ha messo sotto e ha fatto perdere la gamba ha perso il braccio, tu dici: sei contento? Cazzo, io tengo la gamba, mica non tengo più, che me ne fotte a me? Cioè lui, indirettamente ha definito De Magistris un matto. E ha definito, lei ha definito De Magistris un matto sostanzialmente. Certamente non è un non si è morto, non è normale, se, non è normale, costituzionale, normale, non è normale, non è normale secondo me. Non è matto, non l'ho detto, io sono soltanto uno che non ha conservato l'equilibrio, come ma ha qualche ha qualche rotella fuori, non lo so, questo con le rotelle, rotelle qua ci sono state indesit, c'è un'altra pubblicità, quindi non so le rotelle. Vabbè, però lei un po' sta, sta godendo lei, non dica che non sta godendo, no, perché un po'. No, ma non ho spiegato che godo di che, cioè drammaticamente c'è uno che replica così i magistrati, uno che è stato magistrato, che godi, cioè, peggio di Berlusconi, ma manco Berlusconi è arrivato. No, ma c'è la verità, ma io non ho nulla a fuori del cavaliere, perché l'ha pure fottuto alle politiche dicendo di non è che mi ha fatto da favore. Però gli, mo l'avesse detto Berlusconi, cosa che ha detto lui di magistrato, succedeva l'interruzione. Dobbiamo essere onesti. Questo c'è dubbio. Ma che, com'è allora, che l'ha fottuta? Ah, perché, allora, no, perché non l'ha più candidata alle politiche? Non l'ho candidato. No, sono candidato, ma non mi ha fatto votare, anzi, ha fatto votare altri, ma giustamente ha fatto le sue scelte. Io solo sai che la mia libertà di pensiero. Comunque l'avesse detto le stesse. A voi, forse. No, forse, a noi no, forse, a noi no. Forse. Noi sempre gradito. Esatto. Come sa. Io voglio capire una cosa. Quindi lei si sta preparando a fare il sindaco di Napoli? Questo sarebbe la vittoria. No, no, assolutamente. Ma no, ma chi ormai? Chi lo vota più? Ma chi te vota più? Nonno, Clemente? Fuori, oh, faccio il nonno. Faccio. Ma chi te mi vota più? La mistica del nuovo, io sono la mistica del vecchio e quindi non sono fuori. Ma non... chi te vota più, Clemente? Chi te vota più? No, questa è qualche votarella ancora c'è, però insomma non è questo. La vita ormai sei fuori, finita, la politica è finita, dai. Per me la politica non è finita. Non c'è la politica. Vabbè, ma però... Cioè, io mi cambio quando ritorno alla politica, non c'è la politica. Però è finita, torno, però per te è finita la politica, dai. Ma non c'è, mi dica se c'è la politica. Ora, cioè non so chi è maggioranza, chi è opposizione, se beh, c'è opposizione, intanto c'è il tuo amico della Valle, io ti do del tu Clemente, il tuo amico della Valle che pare che voglia salire al Quirinale con una lista di ministri. Ora la mia domanda è questa, ma chi lo chiama? Chi lo chiama al Quirinale? Chi va al Quirinale? È indicato come Presidente del Consiglio, ma che sarà al Quirinale? Così ma dicevano i giornali, non smentiti. Ma lasci stare i giornali, cioè la cosa che insomma magari può dire, ecco, rispetto ad un governo il cui profilo mi pare che sia di scienziati, di navigatori, di allora probabilmente scegliete al meglio, ci sta una lista di persone, ci sono una serie di persone. Ma chi la dà sta lista? Chi la dà? Ma non lo so, c'è cioè uno può indicare, come dite voi, c'è cioè chi vi piace o non vi piace, cioè magari sul piano dell'industria sarebbe migliore questo ministro se mettete ma chi lo dice? Questo. Ma chi lo dice? Ma no, sul piano dell'opinione pubblica. Ah, così come? No, ma no, che fa? Ma al Quirinale, che ha chiamato lui? È stato eletto, è stato. Spero che qua non c'è nessuno eletto, quindi come tale, quelli che sono gli ultimi tre anni. Esatto. Se nessuno, quindi potrebbe andare pure dalla Valle. Ha pensato solissimissimi, che ormai si vota, ma tanto si vota per cose strane. Poi dice, ho preso il 40%, ma l'ha preso alle europee. E come quello che ha partecipato al campionato, come ha vinto la Coppa Italia, ma non ha vinto il campionato. Questo ma è nessuno vero. Ha vinto il campionato, e sembra che ha vinto il campionato e Coppa Italia. Questo è vero. Lo sa che mi hanno detto, lo sai Clemente, che mi hanno detto che in questa lista addirittura c'è pure, voleva mettere pure Paragone, il suo amico Paragone. Ti giuro, voleva mettere pure Paragone in questa lista. Giuro. Se dite così vi mette in gabbia. State attenti, a te e al tuo collega, vi mette in gabbia, quindi non dite che. Ma chi c'era dentro chi c'era dentro sta lista? Rispetto alle cose che state dicendo, chi c'era dentro sta lista? Ma non lo so, io non la conosco, io non vedo Diego. Ma che consiglio vuoi dare? Sta a Parigi, quindi sta per le cose della moda e quindi per ragioni di lavoro. Per quanto vabbè, ma oltre al consiglio, ci vedremo con lui nei prossimi giorni. Ma insomma, non niente. Vabbè, Clemente, oltre al consiglio, lui stimola, come fa lui? È una sorta di zanzara, sta facendo la zanzara politica in questo momento della Valle. Ecco, è una zanzara. Beh, insomma, dai, una zanzara. È andato giù pesante. Correnzi, altro che zanzara, cioè, ma perché la zanzara ci picchia a me, porca miseria, ho dovuto utilizzare un prodotto qua di destra, perché la zanzara mi fa certi lividi qua, no, certo, d'accordo, lui, però ha detto che è un sola, ha detto che dai, ha detto le peggio cose di Renzi, ha detto che non è un governo all'altezza, eccetera eccetera, cioè, ha detto delle cose pesantissime. Mi pare che lo spazio tra le cose che dice Renzi e quelle che si fanno sia enorme. Però e scusami, quindi, tu che consiglio gli dai? Bed, come io dico, ma siete due sola, io dico pure di voi due sola, quindi in questo caso qua lui l'avrà detto rispetto a Renzi, dico pure io, siete due soli, ma noi siamo due soli anche voi. Ma perché poi ce la sta tanto con Marchionne, poveraccio, che ha salvato un'azienda, l'ha resa internazionale? No, ma non è che credo che l'abbia stima rispetto a Marchionne. Ma però, che stima dire, verso no, Marchionne, no, dai, su, no, ma... io credo che se questi ragioni, se però tu Marchionne ti elevi a tratteggiare un'idea dell'Italia in un certo modo, e dopodiché paghi, come dice, le tue cose fiscali all'estero, la Fiat sta in parte in Olanda, in parte in Gran Bretagna. Vabbè, ma è una multinazionale, è una multinazionale. Come? È una multinazionale, Clemè. Ho capito, multinazionale, allora non è più una cosa nazionale, è una multinazionale. Ma già si sa. Quindi non è una multinazionale. Non è più però, scusami una cosa, ma tu che sei così disoccupato, perché non disoccupato no. Vabbè, disoccupato politico, disoccupato politico, vabbè, diciamolo, disoccupato politico, per questo sono disoccupato politico. Perché il Napoli non disoccupato perché non c'è la politica. Ma il Napoli non ti interessa? Non c'è la politica e sono disoccupato. Torno alla politica e mi occupo di nuovo. Ma perché il Napoli non ti interessa? Il Napoli che sta in difficoltà in questo momento. Fatti da un posto da De Laurentiis. Ma perché io mica ho bisogno di posti. Ma no, un incarico. Il terzo incomodo con voi. Facciamo una cosa al giorno con voi. Gratis, la faccio gratis io con voi. Un incarico. No, non voglio incarico. De Laurentiis, Napoli, che ne so. No, assolutamente no. Cioè, va bene De Laurentiis e spero che si ripigli pure Rafa Benitez, quindi il Napoli. Speriamo. Cioè, che si ripigli pure Benitez o che lo cacci? Come? O che lo cacci Benitez? No, se va bene non lo caccia. Quello è scontato. Comunque, oltre al consiglio di non scegliere, tu gli consigli di fare la politica della Valle o no? Oppure no, troppo pericolo, i magistrati, come hai detto? Sul piano amichevole direi lascio stare. Sul piano politico, perché mai, se io avessi possibilità, mai come in questo momento, per uno che abbia voglia di fare politica, uno spazio enorme. Enorme. Ma potrebbe essere Della Valle leader, sì, diciamo. Può essere Della Valle, può essere Parenzio, può essere. No, quello no, chiunque. Anche perché Parenzio non Parenzio. Un po' difficile. No, difficile, però Della Valle potrebbe essere un anti-Renzi, del, diciamo, moderato o no? Potrebbe farlo, secondo te? Ha la statura per farlo? Per guidare un governo, credo che uno che guidi una grande impresa come la sua, credo ce l'ha, sì, ce l'ha. Lo potrebbe guidare un governo della Valle? Potrebbe, come no? Ma non è la stessa cosa un'impresa il governo, Clemè, proprio tu che sei uno di quelli che sì, dice il primato della politica. Devo dirti, se tu mi dici ha la capacità che poi lo voglia fare, questa è una cosa diversa. Secondo me, come ho detto un po', prima, un po' di voglia ce l'ha, dai, un po' di voglia di far ritornare la politica e quindi di coinvolgere gli altri, di fate qualcosa, vabbè, per fare iniziativa. Comunque un po' di voglia ce l'ha, non è dai. Tanto quello che vada lui in prima fila, è quello di dire facciamo, fate qualche iniziativa, cioè si dia una risposta ai problemi drammatici, vabbè, che sono il paese, questo sì. Però ti voglio chiedere un'ultima cosa, Clemente, certo. È questa, ma ti sei pentito di avere dato l'autorizzazione a procedere per Storace per la questione del Presidente della Repubblica? Questa cosa lui ha fatto pure contro di me, eccetera. Il dato qual è? Che purtroppo la norma è la norma, il ministro è un atto dovuto. Se come dire, poi diciamo, io evito ragioni un po' particolari per ragioni di correttezza. Ma lo rifaresti? Lo rifaresti? In 4-4-8, come diciamo, fu deciso all'epoca. Non è che io l'ho fatto in maniera così personale. Non so, cioè, ti hanno detto di farlo? Lasciamo stare. No, dimmelo, okay. No, dillo. Lasciamo stare. No, ma sei stato obbligato a farlo. Cioè, è un atto dovuto quello, che se prende a capo dello Stato è un atto dovuto. Cioè, ti ha chiamato qualcuno e ha detto già... Lasciamo stare. Beh no, se dici lasciamo stare è questo che fai capire, scusa. Ma chiamato il Padre Eterno. Eh beh, ho capito, lasciamo stare. Non è possibile. Cioè, non è stato un tuo atto autonomo, stai dicendo. È un atto dovuto quello del ministro così rispetto... No, non è un atto dovuto. Non è un atto dovuto perché tante altre volte il Presidente della Repubblica era stato, come dire, tra virgolette insultato e nessuno ha fatto nulla. Non è un atto dovuto. No. Va bene. No, e vabbè, no, ma tu lo rifaresti o no? Lo rifaresti o no? Ma oggettivamente per com'è credo di no, perché proprio lo stesso lavoro. E sei contrario al reato di vilipendio? Sei contrario? Sì, va eliminato però, fino a quando c'è purtroppo è così. Allora chiedi scusa a Storace per questa cosa qua. Ah, no, non devo chiedere scusa, perché devo chiedere scusa? È l'unico che rischia, però. Cioè, al ministro sono stato obbligato da chi? Da qualcuno? Ma era obbligato, no, per norma a farlo. Hai detto lasciamo perdere, hai fatto capire che c'è qualcuno che ti ha obbligato. La norma era quella. Beh no, altre volte non è stato così. Vi saluto, buona serata, la norma era quella. Ciao, ciao, ciao. Dite minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Zanzara. Articolo 18, ragazzi, non poter licenziare un imbecille che ti prende per il culo.

zio, ma come fa un ignorante così? Ma come fa uno che parla così a essere diventato sindaco di Napoli? Io non parlo, io che siamo a Roma, che per carità c'è sta Sottomarino, quindi siamo gli ultimi a poter parlare. Però porca puttana, guarda. Parenzo, cioè, che dici? È tornato oh, Riccardo, dimmi. È tornato Riccardo da Roma, mamma mia. Mamma bella. Mia, è tornato. Guarda come da ordine. Mamma mia. Che scandalo, lo dico io. Parenzo, gli piace, è appassionato dal dibattito della direzione del Partito Democratico, capito Riccardo? Si è appassionato. Mamma mia, cioè sarebbe come dire uno che è appassionato un dibattito classico o sulle differenze tra gli pterodattili e i tirannosauri. Cioè, delle cose morte, siete finiti, siete le merde, la concorrenza è una dittatura militare di stampo comunista che paga gli operai 10 euro al giorno. 100 euro al mese, questa è la concorrenza, indottrinate militarmente in fabbriche come la Foxconn, costretti e schiavizzati a lavorare 15 ore al giorno, e tu ti metti a fare concorrenza con questi dopo che hai aperto le barriere con l'articolo 18, ma tu sei un coglione, e sei ancora più pericoloso. E vabbè, non ho capito perché per te, non ho capito Riccardo, ma che bisogna te, i migliori di persone, ma che bisogna, guarda, io ti giuro. Dimmi. Io chiamo una volta ogni tot mesi quando il numero di cazzate sparate, ma non per quello che sono, perché potete parlare dei gay, dei trans, per me chiunque può chiamare chiunque, massima libertà, ma quando si parla di queste cose qui, sì, il lavoro, i soldi, le imprese, per la pelle della gente, e allora un coglione come Parenzo, ma non Parenzo in sé, Parenzo, Macaluso, Bentinotti, vabbè, tutti questi coglioni, Macaluso, cioè tutti questi coglioni, nella testa della gente poco informata, nella testa di uno di 18 anni che magari per la prima volta si affaccia alle cose del mondo. Riccardo, la mia vita è la sua. Riccardo, capito? Cioè, se sta sentendo Parenzo, ma io Riccardo, ascolta un attimo, ti voglio dire una cosa. Prima fai con me un bel respiro intanto, aspetta, guarda. Io sono d'accordo con te sull'articolo 18, questo è il dramma tuo oggi, che io sull'articolo 18 sono d'accordo con te, ma non l'avrei detto in questo modo. Statali, vero? Eh? Ma non per gli statali, vero? Soprattutto per, solo gli statali, per i privati. Non vale. No, non vale per gli statali, di già purtroppo, non vale. Lo so, dico, tu purtroppo sei d'accordo ad applicarlo solo sul privato, giusto? No, tutt'altro, io sono a favore della riforma dell'abolizione del articolo 18. Se fossi solo tu a decidere, non Matteo Renzi. Vedi che sei una testa di cazzo che non capisci, io non ho il prosciutto sugli occhi, non sono ideologico come pensi tu, brutta testa di cazzo. Io invece, perché capisci solo questo di viaggio. Ogni volta che ci vuole le pitiglie le chi culo. Ma io sono d'accordo con te su questa roba. Per una vita, a proposito, oggi la guerra gli hai dato le condannate per una vita fatta l'assolto. Ma io sono d'accordo con te questa volta sull'articolo 18. Ma di prima che Salvini ci ha messo 16 anni a fare l'università e sei messa a ride quando l'idolo tuo Travaglio si è laureato in lettere a 32. Ma non perché non ti sempre due mesi misure? Siccome purtroppo non capisci un cazzo e sei come accecato dall'ideologia. Vabbè, quando non sai rispondere agli insulti, ormai ragazzi, l'articolo 18 andrebbe cancellato. Bisognerebbe avere libertà di licenziamento, perché questa cosa della discriminazione è una stronzata. È una stronzata, perché chiunque licenziato può dire sono stato discriminato e ci sarà sempre un giudice che gli darà ragione. Un altro tema, esiste già la possibilità. Ragazzi, bisogna che gli imprenditori abbiano più facilità ancora esiste di quanto non già, ma cosa esiste già, che esiste non si può licenziare già nessuno in Italia, ma non è assolutamente vero, ma dai, su non sì risulta che tu in Italia tu, allora scusa Parenzo un attimo, ma solo 10 secondi di lucidità, Riccardo, tu in Italia, oltre, fatturi, oltre tu in Italia c'hai 100 dipendenti. Parenzo, un attimo, dice, in Italia tu c'hai 100 dipendenti. Fai star zitto quel bambino che piange, quel bambino che piange, perché in Italia hai 100 dipendenti, fai star zitto quel bambino, fatturi 1 milione al mese. Ok? Se improvvisamente ne hai fatto di 500.000, non ne puoi buttare fuori 50. Non ti inventare cazzate. No, ascoltami, amico mio selvaggio, che hai un linguaggio selvaggio. Questo è il caso concreto. Ascolta, il 99% delle aziende, questo è il caso concreto. Selvaggio. Non mi rispondi alla stronzata di quello che è marocchino, o che è tunisino, o che è di Frosinone, o di Frascati. Rispondimi a questo, caso concreto. Fatturi 1 milione e ne hai 100. Fatturi 500.000, che fai? Te lo dico, e io quindi, che fai? Non puoi, e quindi di chi è la colpa? E di chi è la colpa? Come di chi? Di comunisti! Che cazzo ha scritto da come lavoratori? Ma quali comunisti? Ma ti rendi conto che ha governato la Democrazia Cristiana per 40 anni? Ma adesso su questo si può discutere, dai, su questo sei proprio stupido. Questa è una cazzata più grossa. Guarda, questa è una cazzata più grossa di quella che Berlusconi ha mafioso. Guarda, questa è una cazzata più grossa di quella che Berlusconi ha mafioso. Scusa, Riccardo, Riccardo, ma che adesso abbiamo capito, lo sai che c'è un club, Riccardo, fans club da Roma che è nato su Facebook? Ne sei a conoscenza o no? Guarda, Cruciano, lo so perché ultimamente non mi interessa. Comunque ti abbraccio, adesso veramente ti devo lasciare perché ho delle cose urgenti. No, in famiglia. Esiste. Volevo dire solo aspetta, questo. Esiste l'esercito di Riccardo e Riccardo fans club da Roma con oltre 2000 persone, chiaro? Vabbè, ma lo sai o no? Lo sai o no? No, me ne avevano parlato amici durante la trasmissione, ma non avevo capito se era un gruppo o se era un club o qualcosa su internet. Ma cosa devi fare? Un blog, adesso, un sito, non ho capito. Fare, comunque, se sono 2000, un motivo ci sarà, non lo so. Ho capito, però bisogna rispondere a queste 2000 persone che ti considerano una specie di guru assoluto, una specie di profeta totale. Non sono guru, cioè io sono una persona che dice le cose come stanno, come il signore di prima che tu hai mandato in onda la telefonata sul tipo di sito. Quella è una persona vera, una persona che si confronta col caso reale. Vabbè. Non è una testa di cazzo, assistente universitario oppure un ricercatore o quelle cagate di figure che esistono soltanto nelle sceneggiature di qualche film finanziato dalla sinistra. Cioè lasciamo perdere, va, per favore, lasciamo perdere. Poi ogni volta che siamo a votare Berlusconi vi ha milioni di voti e non so chi cazzo vota, ma questo lo giochi, guarda, ti devo lasciare, vi abbraccio tutti. Ciao ragazzi, continuate a litigare, continuate, ciao. Chi è che mi chiama? Chi è? Sono in diretta, amico mio. Sono in diretta. 100 di questi, questo qua è uno che vuole fare gli auguri a Bersani e Berlusconi. Cosa vuoi dire? Che vuoi dire? Ciao. No, ma è incredibile, va. Gianfranco da Milano. Gianfranco? Pronto? Dai, dimmi, ciao. Forza. Due quesiti veloci. Uno, volevo sapere se il signore, mi sembra che si chiami Croce, che ha fatto l'intervento prima. È stipendiato da una società privata o da una società pubblica? Perché se è privata ha tutto il diritto di quelle cose lì, se è pubblica che vada a lavorare da qualche altra parte. Primo. Secondo, qualche finanziamento pubblico lo prenderà questa associazione sicuramente. Immagino. L'altro è... Perché lei fa il cacciatore, Io no, se facessi il cacciatore gli sparerei quello lì, però fa niente. Io lavoro in Corso Lempione, Piazza Firenze, e almeno due volte alla settimana vedo 26 pattuglie di vigili, 42 pattuglie di finanza, 8 pattuglie di carabiniere, 32 che scortano i signori dell'Expo. Ma non potrebbero prendere i mezzi pubblici questi qui che così testano la bontà dei mezzi pubblici? Ma chi è che viene scortato? Chi è che viene scortato, Gianfranco? Non so chi viene scortato, ma se questi prendessero i mezzi pubblici probabilmente non darebbero. Lei sta dicendo quindi... che ci sono troppe auto blu intorno a quelli che comandano l'Expo, diciamo. Carabinieri, vigili, di polizia, probabilmente è vero, probabilmente è vero, probabilmente sì. Vabbè, ciao, grazie. Mandate un messaggio a Pisapia. Vabbè, Massimo Brescia. Massimo da Brescia, dai. Ciao, sono Massimo da Brescia. Vai, dimmi. Volevo parlare anch'io su quel demente di Croce, essendo un cacciatore e avendo appena finito di mangiarmi due tagliatelle. E allora? Salmi di anatra. Niente. Ah, lei si sta appena finito di mangiare le tagliatelle col salmi di anatre. Con le anatre, domenica, col mio fucile. Come si fa a sparare un'anatra? Quando vola gli spari, la prendi, la peli, la mangi. Tu spari a un'anatra, l'anatra va, si alza in volo e tu spari. Esatto, ecco, e ti dico, io comunque ne uccido una alla volta. Digli al signor Croce di andare dai contadini e vedere quante bestie ci sono morte nei campi per la merda che buttano i contadini. Sì, no, ma invece che romperci i coglioni a noi che vogliamo bene alla natura e anche agli animali. No, ma io sono a favore della caccia tutta la vita. Volevo capire come cosa si prova a sparare un'anatra. La prendi soddisfazione, se no ti dai del coglione. Cioè, se tu la becchi, dici sono bravo perché sono un bravo cacciatore, altrimenti sono un coglione. Sono bravo perché la porto a casa e la mangio, sono soddisfatto. Certo, ma è normale che sia così. La caccia esiste, da quando esiste l'uomo? Quante ne prende all'anno lei? Ma quando prendi 10, 12. All'anno? Sì, perché qua in Italia non c'è niente, perché con tutte queste cose c'è poca roba da sparare qua da noi. E invece da altre parti dove va? In Serbia lei a cacciare dove va? No, si può andare in Romania, si può andare da tutte le parti. Cioè l'Italia da questo punto di vista è un paese che offre poco per la caccia? Offre poco perché la nostra agricoltura, come la mettono loro e come tengono i terreni, si dà poche possibilità. Ciao. Ciao, grazie. Risentiamo il presidente del Genoa, Preziosi, ingannato dal finto Ferrero, perché era il finto Ferrero, Andro Mercù, sulla corsa alla fine della partita ieri sera del derby di Genova, sulla corsa del presidente della Sampdoria sotto la curva dei propri tifosi. Presidente Preziosi? Sì. Buonasera, è la segreteria del presidente Massimo Ferrero. Posso passarglielo? Sì, va bene, grazie. Grazie a lei, buonasera. Sì. Va bene, non ti preoccupare. Normale. Sono incazzato. No, io non sono incazzato, io non sono mai incazzato. Io sono uno che sa, sono un uomo di calcio, Massimo. E io so quando si perde, quando si vince, e so perdere. La cosa che un po' mi è dispiaciuta, dico francamente, ma tu non lo sapevi. Quando si è ospiti non si va mai in campo a fare quelle robe lì. Né io né tu, perché io questo qui l'ho fatto prima di te, le corse, no? Però quando sei ospite in casa di un'altra società che ti ospita non lo puoi fare. Tu l'hai fatto, e quando i giornalisti me l'hanno detto, ormai so cavoli suoi, ho detto, forse avrei corso anch'io. Ma io sono fatto così. Sei fatto così, però bisogna rispettare un po' la tifoseria, se no. Vabbè. No, ma sai cosa succede? Succede che io non mi sono mai permesso, che qua hanno vinto 7-8 di derby, non sono mai uscito con la tifoseria dentro a fare, vado sotto la mia quando sono in casa io. Se vinco io, queste sono le regole, poi tu non le fai, Massimo, non me ne può fregare di meno. Alla fine non me ne frega proprio niente. Ma io volevo dirti solo una cosa. Forse ho esagerato, la sciarpa, il giro del campo. No, ma ognuno fa quello che gli pare. Maurizio da Bari, Maurizio! Buonasera. Dimmi. Allora, io ho l'impressione che su questo tema dell'articolo 18, che è molto delicato, si faccia molto populismo, si è molto superficiali. Io sono un dipendente pubblico, sì. Le assicuro che già come dipendente pubblico, quindi avendo tutte le garanzie, sì, del posto di lavoro, sui procedimenti disciplinari eccetera, io devo subire quotidianamente, sì, la pressione di un dirigente particolarmente esigente, particolarmente, diciamo pure bravo, particolarmente severo, che tutta mi rende la vita lavorativa abbastanza difficile. E che farà mai questo datore di lavoro, Maurizio? Che cosa farà mai? Ma ti rende la vita difficile in che senso? Scusa. Guardi, le situazioni non sono così sempre lineari, semplici, chiare, solari. A volte possono essere complicate. Nel senso che io mi è capitato, per essere prima di lavorare come impiegato statale, io ho lavorato in un'azienda pubblica. Sì, vabbè, no? Però andiamo al sodo. Maurizio, qual è il tuo problema? Spiegami. Allora, in un'azienda pubblica succedeva che c'erano dei miei superiori che non erano imprenditori, quindi non è che rischiavano il proprio capitale nel gestire quell'azienda, per cui estorcevano ai dipendenti delle prestazioni tipo deleghe sindacali, sì, il potere, vabbè, però, amico che non c'entrano nulla con la... e no, le spiega, arrivo al dunque. Sì, ma qual è il punto? Cioè, qual è il problema? Il punto è che l'attuale articolo 18 tutela valori di rango costituzionale. L'articolo 3 della Costituzione dice che, dice? Che i cittadini sono uguali di fronte alla legge, non si, non sono ammesse distinzioni di sesso, religione, orientamento politico. Ma infatti se uno viene cacciato per orientamento politico è evidente da un posto di lavoro che può fare causa e non è che, e può darsi che i giudici lo reintegrano. Oggi è così. Ma perché lo è così togliere... anche, è così anche, per me dovrebbe essere eliminate anche queste cose, eliminate totalmente anche questo, nessuno in Italia viene mandato via per motivi politici, dai, dai posti, non è questo il punto. Come nessuno viene mandato? Ma mandato via, licenziato, dico, licenziato. Mettiamo che io sia gay e il mio datore di lavoro è un omofobo. Ma non è così, questo, ma comunque in ogni caso c'è la possibilità di essere reintegrato, c'è la possibilità di essere reintegrato a prescindere dall'articolo 18 per le altre leggi, in ogni caso. No, è l'articolo 18 che ci tutela, è solo quello, anzi, vabbè, dico Maurizio. Di più. Cioè, lei sa benissimo che l'articolo 18 è stato riformato dalla legge Fornero, no? Mentre prima era previsto reintegro in caso di licenziamento senza giusta causa, adesso il datore di lavoro può licenziare senza giusta causa semplicemente pagando un'indennità. E dunque, quindi, conclusione? Già di fatto, i lavoratori sono esposti, diciamo, all'arbitrio, alla libertà totale. Conclusione, del secondo lei deve rimanere tutto così come adesso? Io sono licenziato perché sono cattolico, il mio datore di lavoro. Ma figurati, sarebbe reintegrato un secondo dopo lei. Ma come no? Un secondo dopo sarebbe reintegrato. Ma l'articolo 18, non sono più reintegrato. Non si preoccupi, che questa cosa resta comunque. E resterà comunque. Ma è proprio questa che si vuol togliere. Ma non si vuol togliere questa posizione. Non si vuol togliere questo qua. Guardi, non si vuol togliere questo. Ma come? No, non si vuol togliere. Si vuol togliere, allora si vuol dare più facilità nel caso, in cui, nel caso di crisi economica, di situazione difficile, eccetera, ma eccetera, di inefficienza. Ma quello c'è già. Ma no, ma non c'è. C'è. È molto allora, complesso, le posso assicurare. Allora, dispiace, non è così, è molto complesso. Si parla senza sapere ciò di cui si sta parlando. Perché l'articolo 18. L'abbraccio fortissimo. Ciao, l'abbraccio fortissimo. Ciao. Tipi da Zanzara. Natascia da Roma. Buonasera Cruciani. Dica. Senti, volevo proporre un altro campionato di mungitura. Sì. Magari di piselli, per vedere chi piscia di più. Prima ho messo te e Parenzo. Sì. Visto che sei proprio così poco sensibile nella... Ma perché qual è il problema del campionato di mungitura delle vacche? Tu parli solo qual è il problema? Qual è il problema? Ha parlato quel signore della LAB che conosce le mucche sicuramente meglio di te. Sì. Tu infatti dovresti andare a fare il campionato di mungitura di piselli, ti metti in prima fila te e Parenzo, poi arriva qualcuno che ti strizza il pisello e vediamo se pisci più. Perché gli uomini sono e le vacche sono sullo stesso piano. Perché gli uomini e le vacche sono sullo stesso piano. Una bella strizzata sulle palle, così almeno invece di parlare stai zitto. No, ma ho capito, Natascia. Puoi parlare anche ho capito, altri. Quella magari in quelle cose là sei più esperta te, io non sono esperta in quel senso. Se vieni ti do l'indirizzo da una bella strizzata di quelli. No, vabbè, quello potrebbe anche piacermi. Te e Parenzo però. No, sicuramente... quello potrebbe anche piacermi, no, è meglio che non vengo, potrebbe anche piacermi. Ma fai parlare la gente, abbi rispetto degli animali che sono più degni degli esseri umani. Gli animali sono più degni degli esseri umani. Ma sicuramente, guarda, non c'è un animale che viene a strizzarti il pisto per vedere quanto pisci. Sì, allora? E allora impara a rispettare gli animali. Sì, perché uno non può fare il campionato mondiale di mungitura delle vacche. Io sai che spero, che arrivi un essere superiore per forza, solo per forza, no? Sì. E venga a strizzarti le palle, il pisello per vedere se pisci più tu o qualcun altro. Sì, ma quello lo fa di solito il coso, lo sai che è l'urologo, no? Quando vai quando hai problemi di prostata, lo eccetera. Faccio pure io. Sì. Vieni, facciamo il campionato di mungitura di piselli, vediamo quanto pisci, se pisci più tu o Parenzo. Al giorno quanti strizzi? Qua... No, io non strizzo nessuno perché gente di merda come te non ne frequenta, capito? Senti, ma io adoro questo campionato mondiale di mungitura delle vacche, sta diventando, dopo il tuo intervento, sta diventando la mia manifestazione preferita, lo sai? Tu devi promuovere il campionato di mungitura di piselli. Guarda che esisterà il campionato mondiale di mungitura di piselli, esisterà da qualche parte negli Stati Uniti, ma comunque questa gara qui sta diventando, questa gara con le mucche protagoniste. Ma lasciate gli animali dove stanno, vi prego. Tipi da Zanzara. Allora, faccio un annuncio urbi e torbi. Un bresciano è diventato campione mondiale di mungitura delle vacche. Si Si chiama Gianmario Ghirardi, 31enne di Malonno. Si è aggiudicato il primo posto nell'originale competizione organizzata a Lenna, provincia di Bergamo, credo. 9 litri in 2 minuti. Cioè, in 2 minuti è riuscito a mungere da una vacca 9 litri. Non è morta, animalisti, la vacca non è morta, non vi preoccupate, non è morta, è ancora lì, vive e vegeta, non è successo niente. Ma certo, ma quando sì, forse si è un po' fatta male alla mammella, ha sentito qualche dolorino alla mammella. Oddio mio, accusiamo questi signori qui che hanno organizzato dei crimini contro l'umanità, li vogliamo mandare in galera perché la signora vacca si è fatta male alla mammella, magari, no? Perché la signora vacca è rimasta con un piccolo dolorino alla mammella. Dai, su. Campione mondiale di mungitura, 9 litri in 2 minuti, e non ci rompete i coglioni. Spettacolare, spettacolare. Dimmi Claudio. Eccomi. No, vai. Ho chiamato riguardo all'articolo 18. Ancora, no? Dimmi. Vabbè, se devo parlare di quello, no, parlo. No, parla. Voglio parlare dei magistri. No, parla di quello che ti pare. Voglio parlare dei magistri, che pure lui hanno applicato l'articolo 18, no? Dai, diciamolo. Però lui, beh, insomma, è un po' diverso. È una lunga catena, no? Noi vediamo che lo Stato, quando c'è magistrati che fanno indagine, vogliono mantenere fede all'articolo 54 della Costituzione, che tu conosci, penso. Sì, no? Sicuro, sì, certo. Come sicuro? Ma io non me lo ricordo qual è. Deve essere onesto nel suo lavoro. Certo. Vabbè, allora. E questi magistrati che si permettono di far proprio vedere vengono tutti scaricati. Tu guarda Ingroia, guarda De Magistri, guarda Di Matteo, guarda Scarpinato, guarda Ardita. Ecco, articolo 18 comparato ai magistrati, ma io vedo sì. E invece i generali tipo Mori, no, che hanno fatto sempre il loro dovere, li passiamo il De Gennaro nella pubblica amministrazione. Invece al privato ci abbiamo i Descalzi, ci abbiamo i vari guarguaglini che vanno via con 9 milioni. Poi noi siamo qui a farci le sedie mentali su un articolo 18 che lo stesso Renzi, a parte 2 anni fa, diceva che non era fondamentale, sì, che non era. Adesso lui dice che invece è basilare, perché sennò imprenditori stranieri non vengono in Italia. Questo deve capire che gli imprenditori stranieri non vengono perché abbiamo una giustizia di merda. Ah, questo non c'è dubbio, perché chiunque può fare anche nel campo del lavoro, chiunque può andare in un tribunale e bloccare tutto, questo è il punto fondamentale. Dunque, da questo punto di vista è tutto irrecuperabile, perché la nostra cultura politica, giuridica, che è irrecuperabile, è fatta di dettagli, di ricorsi, ricorsetti, eccetera, eccetera. Ti saluto e ti abbraccio. No, non ho tempo, ciao. Prima di presentarvi l'ospite, l'ultimo ospite di questa sera, risentiamo la Biancofiore che cosa pensa dei trans. Biancofiore, Forza Italia e i trans. Francamente, se uno è gay vada con l'uomo o con la donna, se uno è etero vada con l'uomo o con la donna, ma che vada con una roba mista mi sembra un po' strano, anche perché no, non esiste in natura la roba mista, è una cosa artificiale, punto. Roba mista, virgola, artificiale. Francamente io non voglio interessarmi della vita privata di Luxuria, francamente lei faccia quello che vuole della sua vita. So che lei lo ha detto tante volte, che anche in Parlamento, che ovunque, eccetera eccetera, no, che era molto gettonata, l'ha detto spesso e volentieri, no? Ma perché probabilmente una cosa mezza e mezza è probabilmente, come si diceva prima, trasgressivo e quindi attraente, ma che mi dite che sia normale, no. Cioè, una cosa mezza e mezza, dice la Biancofiore, è trasgressiva e attraente. È con noi Eva Robbins, buonasera. Che è un po' tutto questo. Buonasera. Buonasera, ciao Eva. Ciao. Allora. Beh, ma secondo te è vera questa cosa qui? Cioè che è oggettivamente vera che quello che è diverso, quello che una volta veniva considerato il terzo sesso è attraente e che Luxuria, dice la Biancofiore, abbia trasformato questo in una fonte di guadagno? È un po' vero o no? Ma io credo che ognuno possa decidere quello che gli piace nel privato o nel pubblico, se poi vuole dichiararlo. Che la signora intervenga su quello che può piacere o non piacere a molti mi sembra un fatto così un po'. Dicendo poi, normale, ecco, non è normale, roba normale mista, roba dalla mista. Tua normalità, da quello che tu decidi, che cosa ti arrazza. Ti ha stupito la Pascale che è diventata, il mondo come cambia, la Pascale, la fidanzata dell'ex presidente del consiglio di un partito di destra eccetera, che ogni tanto ha detto sui gay delle cose pur essendo, come dire, un po' libertino, che va a braccetto con Luxuria al Gay Village, dove tu pure sei stata venerdì scorso. Esatto, no, mi sembra una grande conquista. Ti piace la Pascale da questo punto di vista? Ma mi piaceva già prima, perché era insomma una eroica. Addirittura, come mai? Perché eroica? Ma beh, certo, se fidanzata con una spina sul fianco non è molto facile insomma digerire poi tutto. No, è stata una scelta coraggiosa e la stimo molto. Anche se il matrimonio non è una scelta facile, ecco. Però capisco che i gay devono in qualche maniera tutelarsi, perché se vogliono garantire al compagno un'eredità per il domani, capito? Qualcuno dice che è una cosa da conservatori sposarsi. Cioè che... È una cosa un po' da conservatori, però alla fine anch'io sono diventato un po' conservatrice, per cui opto per il matrimonio, per i legami che tutelano. Sì. Lo sai che non si è mai operata, Parenzo? Eva Robbins? Lo so, io lo l'ammiravo anche, sono andato al cinema tantissimi anni fa, avevo 20 anni quando e oggi fa teatro, fa grande teatro. Sì, ho orifizi a sufficienza, grazie. Hai orifizi a sufficienza, cioè non te ne serve uno in più. Mantieni un solo orifizio, no, un solo no, diciamo nelle parti. Mantengo quello che la signora. Come dici, Eva? Mantengo tutto quello che la natura mi ha dato, non voglio il surplus. Non voglio essere artificiale, come dice la signora. Non vuole essere una roba un artificio. Che dici, Parenzo? Non ho capito. No, volevo sapere, la nostra editorialista di riferimento, la signora Robbins, più che il parere di Pane Bianco e della loggia, è interessante sapere la signora Robbins che cosa pensa dell'articolo 18, ad esempio. Ma chi gliene frega dell'articolo 18, Eva Robbins? No, per me è una marca di pantaloni, figurati. Ma figurati, che gliene frega? L'articolo 18 potrebbe essere addirittura il titolo di una, che ne so, di un, sai, quei capannoni, un gruppo musicale. Un gruppo musicale, un capannone. Dove ci vediamo? Ci vediamo zona 18, articolo 18. Senti, ma perché non ti sei mai operata? Appunto, una cosa è quella di cui all'inizio la volevi fare? Prima sì. Prima poi sì, sono sempre stata molto coerente a quello che ho, ecco. Sono diventata famosa per quello che ho, perché a un certo punto rifiutarlo. E poi a un certo punto c'è stato un momento che ho avuto un attimo di defiance, che volevo anch'io avere quella cosa che in fondo i gay non penserebbero mai di metterselo in mezzo alle gambe. Proviamo. Allora ne ho visti un paio. Cioè di che cosa? Un paio, e ce n'era una fantastica fatta da un Derrimpole, che è questo famoso chirurgo londinese, che era fantastica. Poi ne ho visto un altro dello stesso Derrimpole, che però era tutto un po' sgangherata. Allora mi sono detta, Cioè hai visto delle fighe praticamente? Cioè hai visto Sì, ho fatto un po' di valutazioni, no? Perché uno le può scegliere anche la forma e tutto? Sì, c'è anche un catalogo adesso, non quello di Derrimpole, però ad esempio quando si va in Thailandia a fartela ti fanno vedere tutti i modelli. Beh, fantastico, non lo sapevo che ci fosse il catalogo delle fighe, Parenzo, è una cosa pazzesca, della vagina, il catalogo della vagina, sì. Ricostruite, sì. Delle vagine ricostruite, tu lo sapevi, Parenzo? Lo sapevo, sì, perché come per chi si rifà il seno, che può scegliere la grandezza del capezzolo, la grandezza... Vabbè, io pensavo che la vagina... No, no. No. Questo ammetto che lo sapevo, sono come tu mi dici un bacchettone politico eccetera, però ne conoscevo l'esistenza, il catalogo è questo. Comunque la cosa che mi stupisce, diceva. La cosa che mi stupisceva è questa, è che era sicuramente qualche anno fa, quando tu eri più giovane, dicevano che sei vecchio, non che adesso sia vecchio, eccetera. Però c'era già una richiesta del terzo sesso, ma adesso c'è una grandissima richiesta del terzo sesso. Come mai? Cioè dei trans, eccetera. Vanno ancora molto molto di moda. Come mai? Forse perché appunto c'è anche una grande offerta di donne biologiche, probabilmente. Allora l'uomo un attimino forse ha voglia anche di sperimentare qualcosina di fuori. Quello potrebbe essere uno dei motivi. Capito, cioè, perché continua ancora una grande richiesta online. Tu sei molto affascinato da questa cosa. No, io sono affascinato da tutto quello che è l'animo umano, tutto quello che sono le perversioni, non in senso negativo, tutto quello che è le sfaccettature dell'uomo, dunque anche i gusti sessuali degli uomini, anche degli uomini pubblici. Però in particolare le trans in te, ma non è un reato, anzi, ma in te hanno un interesse. Ma in questa fase è sempre, diciamo, così. Io vorrei capire un attimo, per esempio, da Eva Robbins, se lei si è mai prostituita. No, magari me l'avessero chiesto. Perché? Compromesso è una cosa che mi manca. Ma come non te l'avessero chiesto? Figurati se non ti hanno offerto del denaro per andare a letto. Sì, dai. Mi hanno offerto di tutto. Appunto. Ma non sono una brava meretrice, diciamo. Cioè non ti sei venduta abbastanza? Non sono capace. E ti sei pentita di questo? Come? Ti sei pentita di questo? No, perché oggi sono una persona molto quadrata, sono centrata, vedo invece alcune mie amiche che invece fanno ancora... Aspetta che c'è il microfono, devi avvicinare la bocca alla cornetta, se no non si sente niente. Bocca, le uniche labbra che possiede. Ecco, no, vedo che loro sono anche un po' esauriti, anche perché poi non danno più un prezzo e un valore al denaro, e invece io glielo do in maniera giusta. Ecco. Cioè amiche transessuali che invece sono prostituite. Sì, invece sì, appunto, che sono ormai degli imprenditori, no? Più delle amiche trans normali. Non sono trans, ma sono degli imprenditori. Vabbè, sì, sono è normale. Degli imprenditori, dei caltagironi, comprano appartamenti su appartamenti. Sono molto ricche? Alcune sono. Direi di sì, finché non. Tutto è nero. Tutto è nero. Non vengono tassate. Feball insegna, insomma. Senti, ma tu preferisci l'uomo o la donna dal punto di vista sessuale? Guarda, io francamente lo dicevo appunto quella bellissima intervista che mi ha fatto Vladimir Lussuria al Village, a me l'uomo non piace, per come quello che mi piace la lunghezza del pene. Ti piace la lunghezza del pene? Cioè non ti piace l'uomo, ma ti piace solo l'oggetto? Non mi piace l'uomo, ma mi piace solamente appunto quella zona lì. Cioè dell'uomo ti piace solamente la lunghezza del pene? Che altro c'è da prendere? Che altro c'è da prendere? L'uomo lo usi solamente per quello? Certo, lui mi usa per questa, per altre cose, io uso lui per quello. Io poi mi trovo molto bene col mondo femminile. Aspetta che devi avvicinare la bocca alle tue fantastiche labbra. Alla cornetta del telefono, le uniche labbra che hai alla cornetta del telefono, le uniche labbra che hai, devi ammettere, Parenzo, tu che sei un po', come dire, restio a queste cose, è una bella frase. Le uniche... sono andato a farmi una visita da questo Derenpo, da questo fantastico chirurgo, trasmutatore di peni in vagine, sì. E allora a un certo punto mi amici valutava, perché sai che ci vuole intanto un pene abbastanza consistente per poter fare l'involucro, no? Che poi comporrà la penetrazione. Sì. Allora mi tirava tutto il sacchettino dei bonbon e a un certo punto... Che ti tirava? Che ti tirava? Il sacchettino con il sacchettino con i due bonbon, lo scroto, se venivano le labbra, no? Sì, era abbastanza pelle per poter ricostruire con la tua stessa pelle. Chiedo scusa, dovendo andare a cena tra poco, però questo. Beh, però scusa, a noi che ce ne frega che tu devi andare a cena, è una cosa normale. Sta descrivendo, qui sulla radio di Confindustria, sta descrivendo la signora Robbins quando ha fatto la visita. Non dirmi bacchettone, non dirmi però neanche che è normale che uno alle 20:45 debba sapere la condotta rispetto per la signora Robbins, che si scroto va girato, io devo andare a cena tra poco e non mangio la carne stasera perché mi avete fatto venire il vomito. No, però, ma perché il vomito? Perché tu sei non mangiare la carne la sera. Brava Eva, diglielo, la carne non va mangiata. Adesso che mi avete fatto il dettaglio di quello che dove si gira, dove si mette, no, signora Robbins ha detto una cosa molto semplice. Non ho concluso. Esatto, allora, ha fatto questa visita. Allora, lui valutava appunto tutta questa pelle per poter ricostruire, a un certo punto mi ha guardato, mi ha strizzato l'occhio e mi ha detto tranquilla, da qui facciamo anche un portachiavi. E perché gli hai detto di no allora, Eva? Ho detto di no perché vanno pazzi per quella zona. Ho capito, vanno pazzi chi? Nel lavoro, cioè nel senso che la Eva Robbins non avrebbe guadagnato, non avrebbe lavorato di più, questo è il punto? Ma no. E allora che cosa? Vanno pazzi chi? Gli uomini? Ma no. Ah, gli uomini dici, gli uomini. Ma è un fatto mio. Fatto mio e poi è un fatto che... Cioè il fatto che gli uomini ti guardano in un certo modo perché sanno che tu hai il pisello, diciamo la verità. Beh, c'è una certa curiosità, però appunto loro mi guardano per quella cosa lì, io li guardo appunto per quella cosa lì. Solo per quella cosa lì? Basta trovarsi e... E leger son fait. Comunque in questo momento meglio la destra della sinistra sulle storie dei gay, eh? Meglio la Pascale, queste robe qui, che la sinistra, che Renzi per esempio. Ah, vedi, no. O no? O sbaglio? Meglio la mortadella è di sinistra, il salame è di destra. In questo caso però c'è stata una rivoluzione copernicana da questo punto di vista. Cioè la Pascale è molto più avanti di molti della sinistra, o sbaglio? Sì, è abbastanza rivoluzionaria, sì. Ma ce la vorresti avere una storia con la Pascale? La Pascale non è mascolina, non è un po' mascolina, ce la vorresti avere una storia con la Pascale? Una bella donna, no? No, mi sembra proprio il signor Berlusca, in fatto di belle donne, in fatto di galanterie, di garantire un futuro a questo signore, ci sia proprio un uomo d'altri tempi, no? Beh, assolutamente. Ti saluto e ti abbraccio, ciao, un bacio. Un bacione, state ciao, bene, ciao. Ciao, ciao, ciao. Marco Milano per concludere, Marco. Pronto? Vai. No, volevo solamente sapere, ma era Parenzo che parlava. Perché? No, così. Perché? Una vaga somiglianza. Di voce? Tra chi? Sì. Di voce, tra Parenzo e Eva Robbins. Bah, non mi pare, dai, su. Parenzo. Ma poi non c'è niente di offensivo. Ma non . È che mi ha offeso. No, ma infatti, no. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo domani, è 18:30, ciao. Ma che è la cosa, aspetta, come si chiama? Il programma Radio 24? È una trasmissione bellissima, con tutte le cazzate che dicono, però è piacevole, guardi, è una cosa piacevole. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Crucia, calmati. Radio 24. La passione si sente.